Le due cose possono essere associate nella misura in cui in entrambi i casi, cioè sia che ci si rifiuti di praticare una interruzione volontaria di gravidanza, sia che ci si rifiuti di sottoporsi al vaccino, di fatto si lede potenzialmente il diritto alla salute dei pazienti. Questo è l'aspetto che secondo me accomuna questi due casi, diciamo. Ti sei fatto un'idea del perché, però, per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza, questo obbligo non sia stato introdotto? Sappiamo che ovviamente nella 194 è contemplata l'obiezione di coscienza, però insomma. La 194, come hai giustamente ricordato, contempla l'obiezione di coscienza, è vero, però contempla altresì l'obbligo per gli enti ospedalieri di assicurare l'effettuazione delle IVG richieste e prevede anche che la regione possa garantire questo accesso all'IVG anche attraverso la mobilità del personale. Quindi di fatto un problema esiste, perché i numeri dell'obiezione di coscienza in Italia sono tali da costituire un problema, perché parliamo del 69% dei medici ginecologi, e secondo gli ultimi dati che sono relativi al 2018, gli ultimi dati disponibili. Quindi comunque un problema esiste. Il motivo per cui non si interviene, secondo me, non è soltanto appunto inerente alla previsione dell'obbligo di coscienza all'interno della legge 194, ma risiede fondamentalmente nel fatto che i diritti delle donne è come se non fossero considerati diritti umani, cioè sono diritti un po' di serie B, perché poi di fatto sul corpo delle donne insomma si fa politica, e si fa politica in Italia di un certo tipo. Quindi può esserci anche un problema culturale? Sicuramente c'è un problema culturale, non solo in Italia ovviamente, vediamo, pensiamo alla Polonia per esempio, per restare in Europa. Fondamentalmente riguarda anche un certo paternalismo con il quale ci si approccia a questa questione, perché per esempio viene anche sempre trattata come se non fosse sempre e comunque un dramma, e quindi c'è sicuramente un approccio da considerare, appunto anche un approccio culturale per smontare questo aspetto, diciamo. Sicuramente incide in tutto questo ovviamente lo strapotere, diciamo così, della Chiesa, è ovvio, insomma, sì. Come incide anche sulla vita politica del paese. Una soluzione ovviamente poi non è detto che venga raccolta dalla politica, però potrebbe essere quella che nelle strutture pubbliche i medici, che i ginecologi che iniziano a lavorarci, debbano comunque garantire di poter fare questo servizio? Su questo sono molto d'accordo, perché ritengo che l'obiezione di coscienza potesse avere, diciamo, un senso nel 1978, quando è stata introdotta la legge, perché c'erano dei medici ginecologi che già erano specializzati in ginecologia quando lo Stato ancora non prevedeva nel proprio ordinamento la possibilità di abortire. E adesso come adesso, anzi dal 1978 in avanti, lo Stato prevede la possibilità che le donne accedano all'aborto, per cui il medico ginecologo sa che quella in teoria sarebbe anche una delle mansioni, una delle prestazioni che rientrerebbe appunto tra le proprie mansioni. Per cui sì, io ritengo che la previsione dell'obiezione di coscienza avrebbe dovuto all'esaurirsi dei medici specializzati prima del 1978. Perché faccio un paragone così un po' per assurdo, se vogliamo, ma è come se io, che faccio la giornalista, presentassi il curriculum per il quotidiano della Conferenza Episcopale e poi, una volta assunta, facessi obiezione di coscienza un giorno sì e l'altro no, perché costretta, diciamo, appunto a scrivere qualcosa in cui non credo, ma non presento io il curriculum per un lavoro di cui poi non posso svolgere il 100% delle mansioni.